Salve Milano! Salve Milano! Acqua grazie! Dunque benvenuti. Well, We'll be right back. Milano! Milano! Grazie! Estate, facciamo una canzone un po' più dolce adesso. Oh, Ricky. Amateci, amami! Grazie! grazie. Thank you. 18! 18! E questa è la nostra... Facciamo una sola canzone in italiano e questa si chiama Sempre Tu! Thank you. per piacere. Come si dice? Come here. Grazie Cox 18. Grazie Cullu. Grazie Galla. Grazie Paolo. Grazie a tutti. Facciamo un'ultima canzone. Grazie a voi. Thank you. Grazie Milano! Amami! Ines Musun! Ines! Ines!